pur suo, sei l'erede. Signor, San Cadamera Melendo e figlio, sia mio sposo. Basta a farlo di me degno, che sia tuo sangue e che a Rosa ne piaccia. O spumo e quel comun dolce conforto degli alti miei disegni, io tocco il porto. Se a voi piace così, così si faccia, da mira paga avrai la vasta idea, o non a metà che su sogno mio. Ond'altro non soverresti, sposo a Rosane sia merendo prea, indi parlerò anch'io qual tempo. E sia, o accorda, si tuo sposo, compenso ogni mio danno e dolce lodo. Io pur figlio adorato al sent'annoro, tu rustena in serina braccia il tuo. Ci amato pino delle viscere mie, vollami in seno. Madre, ho tutto il piacer nell'abbracciarti. Ora che pago il mio materno affetto, vendicatevi pur contenta, io sono. No, vivi pur felice, non più facciano a gara i nostri affetti. Rieda ancor fra noi la già perduta pace. A te sovrana tutta la deità di quest'impero grazie ne rendo. I tanti falli miei tu volesti punir, or ci ritorni più tranquilli e felici ancora i giorni.